ogni tanto, questa era la canzone che ci aveva richiesto Maria e che noi abbiamo accontentato ogni tanto, bellissima canzone. Andiamo adesso ad continuare con le nostre richieste, Chiara. Maroon 5, Christina Aguilera, Movies Like Jagger. Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Questa era la richiesta da parte di Chiara. E noi salutiamo anche la nostra radioascoltatrice Cetti. Ciao Cetti, da Termini. Ciao. Che anche lei sicuramente in questo momento ci sta ascoltando. Bene, bene. Bene, bene. Sono contenta, siamo internazionali. Termini, Sant'Ambrogio, Cefalù, San Mauro, Cefalù, finale. Pollina. Pollina. Palermo. Palermo, sì, la scorsa volta, sì. Bene, bene, salutiamo tutti i nostri radioascoltatori. Certamente. Anche quelli che si vergognano a chiamare, perché sai, c'è pure questo. Sì, sì, vero, vero, non vero. Hanno ancora, non hanno capito che noi siamo gente brava. Siamo buonissime proprio. È proprio perché siamo brave noi. Sì. Noi cerchiamo anche di parlare del futuro, parlare di qualsiasi cosa. Sì. Le persone possono voler sentire, d'altronde direi, no? Sì, sì, sì, sì. Non ti sento tanto convinta, Jerry, ma... mia cara. Sì, mia cara. Mia cara. Sei troppo gentilina oggi con me, ma mi preoccupi, sai? No, perché l'oroscopo ieri mi diceva che dovevo essere più calma. Vero, anzi, a proposito di oroscopo... Dici se andiamo a leggerlo un po'? Per questo ti dicevo. Andiamo a vedere cosa ci dicono gli astri, le stelle. Perfettissimo, quindi al solito cominciamo dall'ordine. Con il non primo alfabetico, segno. Ma cronologico. Dall'ordine, Ariete. Primo segno, dal primo Ariete. Segno che è l'Ariete, appunto. La presenza di Venere in Sagittario porterà una ventata di freschezza e di allegria nella vostra giornata di oggi. Siete pronti a tante risate e a momenti di puro divertimento? Non è necessario. uscire la sera e fare baldoria per vivere momenti esilaranti. Vedi tu, chi no, vive sì. piano, sì. bastone e va lontano, no, chi va piano. Toro, sia la luna che il sole in posizione dissonante vi impediscono di vedere con chiarezza come stanno le cose. È facile quindi che vi facciate prendere da un panico ingiustificato ed eccessivo. Chiedete ad una persona di fiducia di darvi una mano e di rassicurarvi. Ah, vedi? Sì, sì, sì, troverà qualcuno sicuramente il toro. Una spalla su cui piangere. Sicuramente. Perché chi trova un amico trova un tesoro. Bene. Oggi parlerò a mo' di proverbi, detti e quant'altro. Sì, andiamo avanti con la musica. Sì, sì, forse è meglio. Meglio, direi. E andiamo a sentire i Negramaro. Questa è bella. Con Io non lascio traccia. Meglio, meglio che meglio chi mio non ti conosce. Silenzio. Sì. Pallido il mio viso, sembro quasi morto. Non sento più le mani e l'odio che ti porto. È come fossi d'olio scivoli addosso. E non mi importa tanto poi di questo fosso. Sigillo posso stare senza dover pensare al rischio di cadere giù. Che tanto se anche fosse dal mio cranio rotto non ne verrebbe fuori mica vino rosso. Ma solo il tuo pensiero su di me è riflesso, arrugginito dentro come un chiodo fisso. Fuggilio so restare, per questo senza aver paura di cadere giù. Programma che bussa alle vostre porte per tenervi compagnia. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Johnny Cash, Personal Jesus. Siamo sempre qui in diretta su CRM Happy Radio, naturalmente sempre in compagnia di Jerry e Rosy. Ricordiamo i numerini di telefono per poterci raggiungere: il fisso 0921 92 32 92. Il telefono cellulare è il 335 56 37 251. Potete seguirci inoltre sul sito www.crmepiradio.it e sul nostro portale Facebook. Bene, bene, continuiamo con il nostro oroscopo, che dici? Sì, continuiamo. Andiamo avanti con il segno dei Gemelli. State per scoprire un modo del tutto nuovo di lavorare, più creativo e innovativo, in sintonia con il vostro modo di essere. La Luna in Acquario, in aspetto armonico, vi insegnerà a sfruttare le ore di lavoro in modo da poter fare crescere i vostri progetti. Bene, Gemelli, bene, bene. Andiamo avanti. Col Cancro. Avete dalla vostra parte, ancora per qualche ora, gli influssi di Mercurio nel segno amico dello Scorpione. La vostra energia è in crescita e avrete un grande spirito di iniziativa. Rincorrete pure i vostri sogni, perché siete veramente ad un passo da realizzarli. Allora correte Cancri, correte. I sogni sono desideri. Sì, basta. E prima o poi si realizzeranno, piano piano. Bello, una cosa bella. Certamente. Allora passiamo ad ascoltare una bella canzone, questa sì che è bella. Ma sono tutte belle. Ma questa è proprio bella, bella romantica, bella, bella. Questa piace a entrambe, devo dire, molto bella. Laura con Eclissi del Cuore, insieme a Neck cantata. Tornerai. Ogni tanto sto da sola e sono sicura che non mi ritroverai. Tornerai. Ogni tanto sono stanca di riascoltarmi mentre piango la mia infelicità. Tornerai. Ogni tanto guardo indietro e scopro come il meglio di questi anni sia passato di già. Tornerai. Ogni tanto tremo di paura, ma poi nei tuoi occhi sento quello che sei. Tornerai, non sai. Ogni tanto cado e non ci sei. Tornerai, non sai. Che ogni tanto cado e non ci sei. Ora ti voglio più che mai. Ora ti voglio qui per sempre. cercavo in una storia con te ed ora è solo un'assurdità. Se non ci pensi tu, eclissi del cuore sarà. Ogni tanto so che non sarai mai quell'uomo che davvero io vorrei. Ogni tanto so che sei quell'unico che sa come trattarmi nonostante i miei guai. Ogni tanto so che nell'intero universo non c'è niente che somigli un po' a te. Ogni tanto so che non c'è niente di meglio e niente che per te non farei. Ogni tanto cado e non ci sei. Che ogni tanto cado e non ci sei. Ora ti voglio più che mai. Ora ti voglio qui per sempre. Se solo tu mi sfiorerai, ci stringeremo eternamente. Ce la faremo se tu vorrai. Non sbaglieremo mai. Insieme assurdità. Se tanto non ci sei, eclissi del cuore sarà. Eclissi del cuore. Eclissi del cuore sarà. Eclissi del cuore sarà. Laura in collaborazione con Neck, Eclissi del cuore. Che bella questa, vero? Bellissima. Bellissima. Questo è il nuovo singolo di Laura che anticipa l'uscita del nuovo album della cantante bresciana previsto per il gennaio del prossimo anno. Il brano è stato realizzato con la collaborazione di Neck ed è la cover in italiano di Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler. In realtà non si tratta di una cover del tutto nuova, visto che Laura aveva già inserito una versione del brano, senza però Neck, nell'EP del Sei come me pubblicato nel 2010. Questa è proprio bella, bella, bella questa canzone. Ha fatto un ottimo lavoro. Brava, complimenti. Hai il nostro 10 e lode. Esatto, esatto. Continuiamo, e noi continuiamo sempre, con la musica. Sempre, tanto CRM, circola buona musica, grande divertimento. 335-5637-251. Poi ci siamo io e te, Jay e Ro. Tom e Jerry, sì, bene. Andiamo a sentire Mario Biondi con A Little Piece of My Life. Last night I was thinking of the little things that I've been dreaming of all in a lifetime. Last night I was driving fast, and through the dark the shadows of my past were shining on. You and I, two lovers, meet and stare each other on their feet. And this is what I'm used to call the piece of my life. Driving fast. dust, and through the dark, the shadows of my past were shining on. Biondi con A Little Piece of My Life, un piccolo pezzettino della mia vita, piccolo piccolo piccolo, però piccolo piccolo piccolo. E andiamo avanti con il nostro oroscopo. Siamo arrivati al segno del leone. Stai attenta a te, eh? sì, sempre attenta io sto. L'ingresso della luna in acquario, potenzialmente portatrice di nervosismo, verrà compensato dall'entrata di Venere nel segno amico del Sagittario. La giornata sarà abbastanza imprevedibile dal punto di vista emotivo, con alti e bassi umorali continui. Aia. Vabbè. Ormai, pazienza. Non può sempre essere rose e fiori. Esatto. La Vergine. L'ingresso di Venere in Sagittario potrebbe portare qualche nuvoletta di troppo nel vostro cielo. Con il partner potrebbero verificarsi episodi di incomprensione, non gravissimi ma importanti, come segnali di un qualcosa che va chiarito all'interno della coppia. State Mamma attente, mia, allora, che brutto. Vergine, state attente, mi raccomando. Stanno sempre a te, ma siamo tutti quanti lì in agguato. Sì. Tipo tun tun tun tun tun tun. Sì, lo squalo che è. Incombe. E andiamo avanti con le nostre richieste, andiamo ad accontentare Patrizia, che appunto ci ha richiesto Gerardina Trovato, Ma non ho più la mia città. Wow. Venne il giorno che le dissi, tu Catania non mi basti, dei miei sogni che mi hai fatto, me li hai chiusi in un cassetto, e sognavo di partire, di trovarmi in un bel posto. Ormai di ragnatele, mi dicevi da bambina, guarda sempre quelle stelle, basta sai vederne una che va giù, tutto sapera quante stelle avrò contato, quante ne ho viste cadere, ma l'America è lontana, ma l'America, l'America era questo. Il mio sogno di volare su New York. E adesso sto cantando e ancora sto sognando, ma sempre dalla mia città. Non è cambiato niente, tutte le notti aspetto ancora una stella cadente. E così presi quel treno, sola. Gerardina Trovato con Non ho più la mia città, la richiesta da parte di Patrizia, che salutiamo. Ciao Patrizia. Ciao. E andiamo avanti con il nostro oroscopo. Siamo arrivati al segno della bilancia. L'ingresso della Luna in Acquario e di Venere in Sagittario porteranno una ventata di aria fresca nella vostra giornata di oggi. Vivrete momenti di rara intensità amorosa, sia che siate ormai stabilmente impegnati, sia che la vostra relazione sia appena iniziata. Scorpione. Prima di agire, cercate di osservare attentamente il comportamento delle persone che vi stanno intorno. Oggi la posizione dissonante della Luna in Acquario vi spingerà alla riflessione. Non esagerate troppo, però, con il rimuginio. Uscite un po' a divertirvi. Divertitevi, scorpioncini, mi raccomando, Fate i bravi sempre tutti. Okay. Un detto sul divertimento. Boh, mi viene in questo momento chi si accontenta gode, chi non si accontenta gode. Non so perché, però. No, vabbè. È chi si accontenta gode. No, chi non si accontenta. Chi si accontenta? Chi si accontenta gode, mia cara. Chi non si accontenta? No, va no, bene, è okay. Chi si accontenta. Adesso lanciamo qua un sondaggio. Va bene, ok, andiamo avanti, dai, andiamo avanti con la musica. Sì, sì, bella musica. Andiamo a sentire Tony Bennett con Amy Winehouse, Body and Soul. My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in a hunger and wondering why it's me you're wrong. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away romance. Oh. Are you pretending? It looks like the ending. Unless I could have one more chance for Friday. My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just the taking. I gladly surrender myself to you, body and soul. Are you pretending? It looks like the ending. Unless I can have one more chance to prove, dear. My life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul.

only thinking about themself alone. Listen me key now, baby, telling me how my sound. Run away them little boy, they will lose up around me. Alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone girl, cause security. I'm mean, not just talk for mine, yo. Me alone, I give you the remedy to set you free. Some boy just want for hide, yo. That's why me, you are letting. Girl, I'm not betting. Ready to make you sweating. Ties them, I'm checking. Legs them, I'm setting. Built for hard stepping. Make you lose, I'm betting. Girl, come. Jordan, get to love you. Get to love you. Bella, simpatica, divertente. Sì, sì, sì, sì. E andiamo avanti con gli altri. Oggi proprio mi si impave. Bene, con gli ultimi due segni del nostro zodiaco. Vabbè, capita ogni tanto di impaperarsi. Acquario. Acquario, il mio segno. Questa giornata sarà in perfetta sintonia con i vostri desideri. Sarete in una forma eccezionale grazie alla presenza della luna nel segno. Sì, vero, molto vero. Sentirete tornare... Ridicola, ridicola. Stai zitta. Dentro di voi una grande energia, quella c'è sempre. Potrebbero nascere alcuni progetti che non rimarranno idee vuote. Molto bene, molto, molto bene amici dell'acquario, eh. Pesci, ultimamente siete stati costretti a ritmi incessanti, invece da oggi siete liberi, vi sentite più sereni e i progetti in sospeso ripartono. Merito di Venere e di Mercurio, che si trovano nel segno amico dello Scorpione e che vi restituiscono fiducia. Bene, anche per oggi abbiamo concluso con il nostro oroscopo, naturalmente lo ritroveremo venerdì. Dopodomani. Dopodomani. Dopodomani. Tra sì, qualche sì, minutino sì. Vi ricordo che ci sarà il nostro appuntamento con il Cinema Time, due film, due colonne sonore. Oggi abbiamo scelto Senti chi parla 2. Per continuare il Senti sì. chi parla, voi Cirri e Amine che ci ascoltate sempre vi ricorderete, spero. Sicuramente. E poi Bahia, un grande capolavoro. Siculo. Direi proprio fatto qui, a due passi da noi. Sì, esattamente, proprio casereccio, ecco qua. E andiamo avanti con le richieste, andiamo ad accontentare Patti, che voleva ascoltare Alessandra Amoroso, Dove sono i colori? È una questione di impazienza momentanea, se non so stare bene dove sono. Bastasse solamente un gesto, un tuo segnale per ritornare lisci come l'olio. E invece sembra facile da dire poi, è un mese che non so nemmeno come stai. Siamo nella stessa stanza e c'è distanza.

Harrison, Got My Mind Set on You. Questa è una delle colonne sonore del film Senti chi parla 2. Adesso in sottofondo andremo ad ascoltare Elvis Presley con Are You Lonesome Tonight. È un film del 1990 diretto da Amy Eckerling con John Travolta e Kirstie Alley. Molly e James sono ormai una coppia sposata e innamorata. Lei continua con il suo lavoro di fiscalista. Lui invece ha coronato il suo sogno di essere un pilota di jet e non più un tassista. I due hanno anche una sorpresa in più. Molly aspetta un altro figlio. Per Mike questa è inizialmente una bella notizia, ma quando nasce la piccola Julie, tutte le speranze che il bambino aveva riposto nell'essere un buon fratello maggiore svaniscono. I rapporti con la sorellina non sono buoni e si rende conto che tutti vogliono più bene a lei che a lui. Intanto Molly e James hanno anche loro le loro beghe. L'arrivo in casa ubriaco di Stuart, il fratello di Molly, provoca lo scompiglio. James non sopporta infatti le manie di quest'ultimo, che tra l'altro dorme con una pistola che per fortuna sempre tiene scarica, e questo causa una rottura nel rapporto tra James e Molly. Ma un giorno, complici l'arrivo di un uragano prima, l'entrata di un ladro in casa e un incendio poi, fanno sì che tutte le tensioni spariscono. Bello, divertente questo film. Ah sì, la continuazione, cioè, è... Cioè tutte le tre serie, diciamo, sono tutte e tre divertenti. E quindi abbiamo svelato che la prossima volta, dopodomani, ci sarà Senti chi parla 3. Adesso già lo sanno, vabbè. Senti chi parla 3. Un'occasione in più per dire, ascoltiamo Toc Toc. Certo, certo, certo. Andiamo avanti. Andiamo a sentire adesso la prossima colonna sonora del film Baria. Ennio Morricone con Bari, appunto. Cinema Time. Con Baria, appunto, dà il titolo al film. Le note di Baria. Bello. È un film del 2009 scritto e diretto da Giuseppe Tornatore, con Francesco Scianna, Margaret Madè, Raul Bova, Beppe Fiorello, Fica Rappicone, Michele Placido e tantissimi altri attori. Bel cast. Il film racconta la vita nel comune siciliano di Bagheria, a partire dagli anni 30 fino agli anni 80 circa. Il tutto viene visto seguendo la storia di una famiglia attraverso tre diverse generazioni. Protagonista è Peppino Torrenuova, il rappresentante della seconda generazione attraverso il quale si vede l'evolversi del paese. All'interno del film sono presenti riferimenti alla mafia, al fascismo e alle lotte sociali post-belliche. Peppino Torrenuova è un bambino della Bagheria degli anni 30. Sin da piccolo è costretto a lavorare dapprima come bracciante e successivamente come aiuto di un pastore, dovendo abbandonare la scuola. Al termine della guerra, durante l'incursione degli abitanti nel paese in una banca, riesce a rubare una piccola fortuna con la quale acquista dei bovini che risollevano le condizioni economiche della famiglia. Inizia a coltivare idee comuniste e da giovanissimo si iscrive al partito, trasformando ben presto le sue ideologie in un lavoro a tempo pieno. Si innamora della coetanea Mannina, ma i genitori di lei non acconsentono alla loro unione perché il benessere economico della famiglia di Peppino è venuto a mancare e pertanto la costringono al fidanzamento ufficiale con un altro ragazzo. I due non si danno per vinti e continuano in segreto la loro relazione finché non decidono di dichiarare ufficialmente il loro amore con una fuitina, chiudendosi a chiave nella casa di lei. Bello, un film da vedere. Molto bello. È toccante e allo stesso tempo c'è anche quella sdrammatizzazione, quel tono ironico. È bellissima la scena di Beppe Fiorello quando fa quella frase: mi scanci sti dollari. Troppo da ridere. Sì, un bel film, grande regista Giuseppe Tornatore. Fa riflettere. E andiamo avanti ad ascoltare il prossimo. Anche per oggi volevo dire, abbiamo finito con il nostro Cinema Time. Io già me ne stavo andando. Sì, già stavi, eri pronta per annunciare la prossima canzone. Esatto, ci rivediamo naturalmente, ci risentiamo poi venerdì con altre due colonne sonore che poi naturalmente sveleremo venerdì, non adesso. Esatto. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano in programma per oggi, Bob Sinclair, Lala Song. Balliamo un po' su. Sì, dai. And diggity, I'm out here with my man Bob Sinclair. One, let's do two, it. Three, hit it. Come on, hand it off, let's see you get down. Back in the day when the DJ spun all night. Why the party's fun, the MCs come to rock and bless the mic. Oh, yeah. No need to worry, no need to hurry, them rules are just for you. Come on. People popping and locking, breaking and rocking. Everybody knows there ain't no stopping. Come on, y'all, get on the floor. We're gonna take you back, make it bigger more. Ain't no party like an old school party, call an old school party, don't stop. So DJ, drop my favorite joint and let me rock the mic. Now throw your hands high in the air. Everybody say, oh yeah. Y'all, it's one the mic and I like to rock the house. I'ma work that body, and baby just burn it down. I'm with a hip and a hop, pop, and don't just stop. Let me see that body rock. Put your applejack cock to the side. Let me hear you say, alright. The groove so funky, furious, it make you dance so serious. When the people hearing us, they start to go delirious. Work it, let's work it. Now somebody, anybody, everybody, scream! The Master G Show. Once upon a time, not long ago, when

che muoiono da soli. In diretta su CRM Piredio, Toc Toc, un programma di Rosy e Jerry. A Night Like This. Siamo sempre qui in diretta su CRMP Radio con Toc Toc, naturalmente sempre in compagnia di Rosy e Jerry. Sei arrivata prima a dirlo, brava. Ti ho fregato. Brava, brava, che brava questa ragazza. Che brava che sono, lo so. Sì, sì, va bene. Dai, non sì. Mi fare essere antipatica. Non è che, vabbè, lo sei. Non vabbè. Lo sono. Dai, stiamo scherzando, ci piace giocare, ci piace stuzzicarci, vero? Sì, piace a noi giocare, mentre magari qualcuno però sta poco bene. Sì, per quanto riguarda Antonio Cassano, mm-mm, che ha manifestato una sofferenza cerebrale su base ischemica, e quanto ha comunicato il Milan sul sito ufficiale, precisando che il calciatore verrà sottoposto nei prossimi giorni a un piccolo intervento di cardiochirurgia interventistica. Quindi facciamo un in bocca al lupo a questo grande giocatore del Milan, credo, quindi. Sì, ma comunque sempre forza Juve. No, forza tutte le squadre. Sì, tutte, vabbè, le squadre. Ok. Forza Palermo. Forza Palermo te lo concedo. Ok, vabbè. Però comunque forza Juve. Vabbè, dai. E continuiamo con la musica. Sì, andiamo a sentire Caparezza con La fine di Gaia. bella, vero? Dai, ascoltiamo. Andiamo a sentirla. La fine di Gaia non arriverà, non arriverà, no no. Sì? 2012, nemmeno temporale. Speriamo bene. Speriamo, sì. Speriamo che possa continuare anche il 2013, allora. Che ce ne siano tanti altri, altri, altri. Sì, ancora. Ma la paura è la fine del 2012, no? Quindi Caparezza va contro. Sì. La sai una novità? No, dimmela, dimmi tutto, sono tutto orecchi. Dopo la soffiata in rete, la smentita, i sussurri, sembrerebbe proprio che Belén Rodríguez sia incinta. No. È oggi a dire questa notizia, la rivista Oggi. La showgirl avrebbe accusato un malore a cena e la notte del 1° novembre sarebbe andata di corsa al Fate Bene Fratelli di Milano per un controllo. Insieme a lei il fidanzato Fabrizio Corona, che avrebbe confermato la gravidanza della showgirl. Però non si sa bene ancora dove ha fatto questa dichiarazione ufficiale, perché è arrivata tramite la sua bocca, quindi ancora dobbiamo vedere un po'. La conferma ancora deve arrivare, non ma già c'è. Se l'ha detta vuol dire a meno che non si fa pubblicità. Può essere da Fabrizio Corona, c'è da aspettarsi di tutto, quindi per farsi un po' di pubblicità chissà cosa farebbe. Esatto. Va bene, dai. Noi nel frattempo ci ascoltiamo un'altra bella canzone e ce ne freghiamo di tutti. Esatto, andiamo a sentire Enrico Ruggeri con La Notte delle Fate. Mary è nuovamente sola e senza dire una parola esce con la faccia incontro al vento. Cambia ancora direzione, canta una canzone questa sera. Candy intanto è già partita e verso un'altra via d'uscita corre con

fare, anche se a volte non puoi scegliere. X, tu già lo sai, io ce l'ho il fattore X. Creo la mia vita come un avatar di Sims. E sto disegnando il mio nome scritto in verde, ma non sono di Greenpeace. Weed, tu già lo sai, io vado fuori per la weed e per i ritmi giamaicani. Oh na na na. E come mai non puoi più fare a meno di tirare sulle mani? Wow, girl. Click, mi chiedi se la faccio con te. Non preoccuparti, baby, se vuoi fare click. Ricordati di mettere flash. So che non vedi l'ora di. Antics con Click, bella questa, divertente. Lo so, ti ho vista che ti sei divertita, mia cara. Varo. Meno male. Meno male che ci divertiamo. Che per oggi. Anche per oggi stiamo concludendo. Siamo arrivati alla fine del nostro programma, del nostro appuntamento Talk Talk. Mannaggia, finite, sono passate velocemente queste due orette. Speriamo di avervi tenuto compagnia, cari nostri CRMini, ma non vi preoccupate, saremo sempre qui venerdì, cioè dopodomani. Dopodomani, sempre dalle 17 alle 19 per tenervi compagnia, sempre con la buona musica su CRM Happy Radio. E allora ci salutiamo, ci vediamo venerdì, anzi ci risentiamo venerdì, ci vediamo perché siamo in streaming, quindi potete anche vederci. Esatto, sì. Buona serata. Quindi un grande bacio. Buona serata, baci, ciao. Ciao. Fate i bravi. Avete ascoltato Talk Talk con Rosy e Jerry.